Radio Doc. Viaggio in periferia di Raffaella Calandra. Futuro uguale un po' Francia. Quello sicuramente. Tra una decina di anni, 20 anni, anche loro vorranno avere i diritti. Non solo io, anche altri che trovano malissimo. No, non ci sono opportunità per i giovani. Il cavo è tirato molto. Con uno sguardo ai cugini francesi, l'altro alle loro case, gli abitanti delle banlieue italiane dicono che sarà solo questione di tempo e le periferie, per usare le parole del ministro dell'interno, ci faranno piangere, perché anche qui la pentola a pressione dell'immigrazione esploderà. Indicativo il fatto che a pensarlo sia soprattutto chi in Italia ci vive da anni ed è in regola. Non sono la maggioranza gli arrabbiati, ma stanno aumentando. Le colonne d'Ercole sono le macellerie Agadir e i call center internazionali. Mano a mano che le loro colorate insegne prendono il posto di eleganti boutique o affollati magazzini, ci si addentra in un pezzo d'Italia nuova, dove uomini di colore e donne avvolte nel chador si incontrano più spesso degli avvocati con la 24 ore. Benvenuti nelle banlieue nostrane, il più delle volte alle spalle del centro. Oh, va bene. Per gli stranieri la vita è dura. Se l'ha visto alle occhi qua, gli italiani, alle loro occhi c'è qualcosa di paura di te, perché per essere straniero. Al mercato di Porta Palazzo a Torino Yassin compra verdure, 30 anni e un'esperienza da decoratore che lo distingue dagli altri. Si guarda intorno, c'è tanta gente, tanti giovani immigrati come lui, e sa perfettamente Yassin che per molti di loro, come quei ragazzi che stanno all'incrocio e vendono spugnette, tutto è ancora più difficile di quanto non lo sia stato per lui. Niente lavoro, niente soldi, niente mangiare, io solo Italia. Io niente casa, dormire della macchina. È freddo. Senza futuro, senza niente. Dentro il tram, paura. Dentro il pullman, paura. Paura, sempre. Anche la strada, paura. La gente come trattano, c'è un po' razzista qua. È difficile per trovare lavoro, è difficile per trovare la casa. Tanti miei amici a Francia, a Parigi, ma è restato uno. Noi usciti dal nostro paese per cercare il migliore. Magari sono venuto qua in Italia, non trovato il peggio del nostro paese, però uguale. Peggio che tu sei straniero, manca tante cose. Io, 13, c'è documenti, non c'è niente. La borghese arriva, io non c'ho documenti, andiamo. Okay. Ciao. Chi arriva in Italia talvolta ha già un punto di riferimento, casomai solo un indirizzo, ma in genere finisce in un posto piuttosto che in un altro per caso o perché è arruolato da qualche racket. C'è anche chi però ha scelto la città in nome di un'antica passione sportiva. Sono sceso da Ventimiglia, è entrato in stazione, ho visto Milano, Genova, Napoli. Io prima cosa mi piace la Juve, sono venuto qua a Torino. Messica, è già, colpa della Juve, mi piace. Luccicano i denti d'oro di Tarek mentre parla nel cortile di un cadente palazzo di ringhiera fiorito di parabole e panni stesi. Torino, quartiere Porta Palazzo, la casa, il lavoro, la difficoltà di inserirsi sono i problemi di tutti qui, dove gli stranieri sono circa 100.000 e la storia dell'emigrazione è passata anche attraverso le proteste anni fa del quartiere San Salvario. La Francia, con i suoi roghi d'auto, lo stato d'emergenza e l'emarginazione, quella raccontata 10 anni prima dal film L'Odio, è molto vicina da qui. Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Le differenze con le città d'Oltralpe sono forti, però è uno stato sociale, è un passato di immigrazione differente, ma di molto diverso c'è anche il paradosso nostrano. Spesso ad abitare i quartieri satellite, quelli più lontani dal centro, le vele di Napoli, lo Zen di Palermo, le borgate romane o i sobborghi milanesi, sono italiani, mentre le banlieue degli immigrati si trovano alle spalle del centro. Ma la sera c'è il coprifuoco qua, da parte degli italiani, e la domenica ci sono tutti tutti loro e la gente giustamente ha paura. Quando nascono le risse tra di loro, a volte capita che anche chi non ne può niente ci va a finire in mezzo e siamo rimasti proprio pochi. Tutti decidono di andare a vivere da un'altra parte proprio perché qua oramai la situazione è diventata invivibile. Anche se non ci sono decine di fermate di metro prima di arrivare ai quartieri a più forte presenza straniera, una linea invisibile ne segna tuttavia l'ingresso e spesso case residenziali sorgono di fronte a palazzoni di edilizia popolare. Basta fare poche decine di passi che i prezzi degli appartamenti oscillino sensibilmente. Famiglie italiane e straniere abitano a volte porta a porta, ma le loro vite corrono su percorsi paralleli. Non esco proprio, perché sono troppi. Ho il cane, per cui scendo la sera, qui c'è gente che magari bivacca. Mi dà l'apparenza di gente che vuole integrarsi. Marco e Aziz abitano sullo stesso pianerottolo, ma non vanno alla stessa scuola, perché la mamma di Marco non vuole che frequenti l'istituto sotto casa. È troppo pieno di stranieri, ci spiega. Marco e Aziz abitano nel quartiere Giambellino di Milano, 9.677 immigrati. Ogni tanto trovo bene, ogni tanto trovo male, dipende la base. La chiesa è solo l'unica cosa, ti aiuta l'Stato, non ti ha aiutato nessuno. C'è anche problema con le pulizie, c'è tanti agenti entrati al carcere senza riato, senza niente. Mi hanno aiutato tutto, mi hanno dato tutto, comportamento benissimo e grazie a tutti. Parlare di integrazione però è almeno prematuro, per usare un eufemismo, se una palpabile incertezza porta anche i più giovani a mettere un fossato tra sé e gli altri. Siamo nella periferia nord-orientale del capoluogo lombardo, zona Molise e Calvairate, dove circa il 25% delle case popolari è assegnato a non italiani. Non stupisce allora che l'immigrazione, come riporta il dossier Caritas, in Italia venga avvertita come un problema da una percentuale di persone di gran lunga maggiore rispetto al resto d'Europa. Hanno meno di 20 anni questi ragazzi, seduti sulle panchine del Parco Alessandrini, intorno a palazzoni grigi tra cui, per ironia della sorte, spicca il bordeaux delle case Haller, edilizia popolare. In un appartamento al primo piano la famiglia Bra, marocchina, padre, madre e 3 figli, vive in 26 metri quadrati. Da 14 anni che viviamo in questa casa. Secondo me non si può vivere in queste condizioni. Vedo anche i muri come sono. Cioè, mio padre lavora di notte, torna a casa alle 4:30. Mia sorella si sveglia alle 7:30 per andare a scuola. Si vede anche le fili della corrente sono fuori. Guarda, soprattutto la casa sta cadendo. La TV accesa su Maria De Filippi, dietro la porta una piccola ghirlanda rimasta lì dalla nascita dell'ultimo genito. La casa di molti immigrati parla di una faticosa lotta a difesa della normalità, un'impresa che diventa titanica però quando appuntite e inferriate circondano il proprio palazzo. Lo chiamano la Casbah a Bologna, questo insediamento in fondo a via Stalingrado. In origine era un centro d'accoglienza temporanea. Da anni che sono qui, io circa 20 anni, mai visto un giorno bello. Vivo in casa comunale, questa casa che a me è una merda questa, no? Vicino da una manifattura che i bimbi ha avuto di asma, così. Noi supportiamo questa situazione da anni, è una situazione melancolica, è una situazione che al futuro si grava di più. Le finestre dei pianerottoli portano i segni di sparatorie, mentre le porte mostrano le tracce di una rabbia sfogata contro ciò che ti circonda. È difficile non pensare a un ghetto in questo palazzone, distante solo pochi chilometri dalla fiera, ma è un altro mondo. Anche la fermata dell'autobus è stata soppressa e inutilmente Ahmed ha raccolto firme. In molti qui stanno pensando di tornare a casa. 26 famiglie ha tornato al Marocco, per cui sono stanchi di queste situazioni così. Seduto nell'officina dell'amico meccanico, Mohammed abbozza un sorriso, ma l'amarezza prevale perché il sole sta per tramontare e anche oggi non ha trovato lavoro. Andare da fuori Italia non è qua, perché qua non c'è il futuro adesso. Sei arrabbiato con l'Italia? Per forza, se non trovare lavoro è un casino. Oh God, I was a prisoner. 28 anni d'età, 13 dei quali passati nel nostro paese, e un futuro prossimo da immaginare, rispondendo innanzitutto ad un interrogativo sempre più pressante mano a mano che si avvicini la scadenza del permesso di soggiorno: partire o restare? Tante persone già tornato nel mio paese, metà andato a Inghilterra, Belgio. Radio Doc. Viaggio in periferia di Raffaella Calandra. Se da tempo le statistiche registrano gli spostamenti da sud a nord della penisola, dai racconti degli oltre 2 milioni di stranieri irregolari emergono anche nuovi movimenti di fuoriuscita dal nostro paese. La crisi economica tocca anche loro ed è evidente anche nelle realtà più ricche come Brescia, la città e la provincia con la più alta percentuale di stranieri in rapporto alla popolazione, il 12,5%, e dove 30 neonati su 100, recitano gli ultimi dati dell'anagrafe, parleranno anche un'altra lingua. La si avverte subito la forte presenza di stranieri a prima vista in stazione, pakistani più di tutti, poi egiziani, cinesi, in una percentuale che si riflette nelle insegne della Contrada Carmine, a due passi dalla centrale Piazza della Loggia. Trovare il lavoro duro, no? Tutti i stranieri, tutto arrivato presi. I lavori non ce n'è più come prima. Solo contratto una settimana, loro ha dato permesso di giorno un mese. La legge Bossi-Fini è già rovinata. Come riesci a vivere? Prendo le bonghi e maschere. Attaccano la legge Bossi-Fini, raccontano dei loro sforzi di miglioramento, ma denunciano anche soprusi di vario tipo, dalla sottoqualificazione, nonostante il 12% dei residenti stranieri, secondo l'ultimo censimento, sia laureato, alle discriminazioni nei pagamenti, accertate anche dalla Caritas, fino a veri e propri casi di caporalato. Ognuno ha una storia da raccontare. Appena è nato il giorno mio bimbo, mi hanno licenziato. Non i danno che danno il sindacalista. Mi hanno lasciato a casa perché sono nero. Anche se a Bologna c'è già stato chi per emulazione ha bruciato un paio di auto e un po' di cassonetti, stando ai numeri molti dicono che semmai anche in Italia dovessero esplodere delle tensioni come quelle francesi, partirebbero da Brescia. E questo nonostante da più parti la Contrada Carmine, il quartiere immigrato per antonomasia, venga indicato a modello di riuscita convivenza, ma l'integrazione effettiva viaggia ad una velocità più lenta. Così un muro tanto invisibile quanto invalicabile separa la comunità senegalese, chiusa nel residence prealpino di Bovezzo, 108 mini alloggi alle porte della città, dalle villette di fronte. Alle 7 di sera le finestre sono già chiuse quando nella hall del palazzo inizia la festa. Donne dai turbanti sgargianti vanno nel piccolo negozio aperto all'interno a comprare le ultime cose per la cena, mentre la radio diffonde il Corano. Uno pezzo in Italia che rappresenta il Senegal, perché ne si vivono soltanto senegalese, e quella è la bellezza, perché anzi quello non si fa mancare tanto il nostro paese, perché mangiamo le stesse piatti, facciamo come in Senegal, ci divertiamo, ci mangiare così, c'è il riso con pesci, c'è bougien e poi c'è anche couscous. Ma questo residence è anche una delle centrali di smistamento dei marchi contraffatti. Lo si intuisce dai bustoni pieni di cinture, borse, CD nascosti qua e là e dalle decine di carrelli parcheggiati all'ingresso. Ma non è necessario fare troppe supposizioni, Falilou lo ammette tranquillamente. E la roba parte da Napoli oppure Firenze, arriva dalle nostre mani e noi le mettiamo nelle strade. Scompro uno, vendo due. Cioè. Per esempio, le borse Prada. Prendo 50. Quanto le paghi? 15. Chi va nelle strade le vende 30-50. Pur tra mille difficoltà, questa dei senegalesi a Brescia è una vera comunità e al paese tutti conoscono questo indirizzo del residence prealpino di Bovezzo. Non è così, invece, per quanti, come i rumeni, stanno aumentando esponenzialmente negli ultimi tempi. Così la famiglia di Fiorello per mesi ha vissuto in una baracca sul lungo Reno di Bologna, prima dell'arrivo delle ruspe del sindaco, che si sono portate via anche i quaderni del figlio Aziz. Prima la sgombero, è scappato, specchiello, ce l'hanno avuto paura, hanno sentito. È arrivata la polizia. c'era la vestite, c'era la zanzara per mio figlio, deve andare alla scuola, la pene, la tutti. C'era mio figlio triste perché c'era troppo arrabbiato. Si svegli, perché c'era paura della polizia. Anche un cane stare bene a una casa. Noi speriamo fuori. Cane stare meglio. Ora però sono stati sistemati in una casa vera e sono felici, ma per i più l'Italia non è quell'Eden immaginato davanti alla TV e tanti giovani lo hanno scoperto presto e troppo forte. Ora è la delusione e la rabbia, soprattutto se questa presunta terra promessa è stata raggiunta a caro prezzo. Mi chiamo Aziz, avevo 14 anni che sono scappato dall'Afghanistan, un anno è stato in Pakistan, poi Iran, Turchia, sono venuto a piedi. Quasi un mese. Da Turchia in Italia sono venuto sotto camion, sempre buio. C'era una cassone che hanno messo dentro il cassone, c'era un autista che mi ha detto va bene, ha preso $3,500 per portarmi qua. Ha messo noi sotto il camion, caricato a noi, c'era 40 persone, sopra di noi hanno messo dei legna. Sopra legna hanno messo sabbia. Una volta quasi io morto perché non speravo. Perché c'era un piccolo buco che arrivava un po' di aria. Come sei venuto qua? Sotto un camion. Un camion che porta la roba dal Marocco qua, senza mangiare, senza un cazzo, solo bottiglie di acqua che c'è. Al paese pensano che qua c'è il paradiso, libertà, c'è i soldi, c'è i posti di lavoro. Vedi il contrario. Tarek e Aziz sanno di essere due sopravvissuti perché ogni anno un popolo invisibile di migranti perde la vita inseguendo lo stesso sogno, come i 283 morti di Porto Palo, affogati davanti al mare della Sicilia la notte di Natale del 96. Chi è? Anzi, chi era questa ragazza? Ampala Ganganeshu aveva 17 anni, Ampala Ganganeshu il più famoso dei 283 morti. Ampala Gan viveva a Jaffna, Sri Lanka. Ampala Gan sognava di raggiungere l'Inghilterra. Ampala Gan voleva diventare ingegnere informatico. Ampala Gan montava e smontava la sua vecchia bicicletta ad occhi chiusi, era il suo hobby preferito. Ampala Gan aveva uno zio a Milano, zio Bala, che dall'Italia gli mandava i vestiti. Ampala Gan aveva un anno meno di me eppure sembrava mio fratello maggiore. Io e Lula Gan siamo sempre stati bravi a scuola. Io e Lula Gan siamo partiti insieme. Io e Ampala Gan siamo partiti insieme. Io e Lula Gan siamo affogati insieme. Io e Ampala Gan siamo affogati insieme. Viaggio in periferia di Raffaella Calandra. Montaggio Pietro Lacorte.